C'ho l'iPhone o il Motorola. Fresh dalla testa alla suola. Splendo come la Sagnola. Rollo in una mastambiola. I sogni di un ragazzetto. Che ora scoppia un palazzetto. A scuola non andavo bene. Allora non lo avresti detto. Però giuro che sta merda qua c'ha zecca. Da quando stavo al campetto, baby smetto. Quando mi sparano in mezzo al petto, vieni giù, lei mi dice vieni dentro. È bella, parla come Marilyn Monroe. Scopa come Marilyn Manson. Con i soldi dei concerti compro l'erba ed i vestiti. Passo i pomeriggi grigi al ristorante con gli amici. Tu che parli di Davide non sai quello che dici. Come un giornalista fra che parla dei miei sacrifici. I sogni di un ragazzetto. Che ora scoppio palazzetto. A scuola non andavo bene. No. Allora ho mollato e gli ho detto: mamma, giuro che sta merda a fare accento. Che sta merda a fare accento. Che sta merda a fare accento. Fare accento, giuro che sta merda a fare accento. Sembra solo un aeroplano. Ogni 15 sembra spegnere una star. Che alle gemme Quentin, sempre all'ora della K. Sembra spegnere un VIP, sembra accendersi una K. So di tua, scusa ma, eia, frega un K, eia. Farò c'è e lo giuro su sta me. Ehi, giro giro e mamma, ma era solo un giro a pie. Ehi, solo un giro a pie, mamma solo un giro a pie. Che déjà vu, so di tua, eia, scusa ma. Ehi, gemme quel gemme, sulle gemme due kamika. Conta che ogni 15 sembra spegnere una star. Conta quanti Quentin, sembro di stare una star. Conta quanti Quentin, sembra di stare uno zoo. Sembra quel beat, ma non di stare allo zoo. Sì, tu volevi quel beat, ma te le scrive mamma. Gira, gira più anche te, ma noi non ce ne frega un cuore, cuore, cuore, cuore. Non fare tanto il grosso, cadi, fai rumore. Ti ho visto che stai sotto, sotto le mie suole. Cucino roba nuova, crema, mascarpone. Pristi la tua religione. Non mi fermi, baby Wonder Woman. Dei miei sogni, dimmi che ne sai. Sto con gen, famiglia, canta roba. Muovi il culo quando siamo live. Sempre sole, mezzo ai lupi. Parlo poco, sembro muta. Batto ste barriere, muri. Vuoi fattura ricevuta. Precis, no suora, no chiesa, no chiesa. In scheda, derecha, arriva, sorpresa. Pensavi che una ragazzina non potesse fare trap. Fare rap, fare questa roba qua. Ho una torcia in mano, statua della libertà. Tu e solo te te curi su Instagram. Sorry baby, questo ancora non l'ho detto. Però giuro che sta merda farà 100.